Capitolo 28. Era comunque previsto che la visita di Ingram presso i Glumbeck si concludesse il giorno successivo, quando egli aveva programmato di trasferirsi a Königsberg, prima tappa del suo itinerario verso il Caucaso, regione le cui novità sperava l'avrebbero aiutato ad arginare la noia almeno per qualche tempo. Pertanto il barone e la baronessa furono notevolmente sorpresi quando annunciò loro che invece di mettersi in viaggio per il Caucaso si sarebbe diretto a Köckensee. A Köckensee? Domandarono all'unisono. Sì, per ritrarre i capelli di Frau Pastor. Il barone e la baronessa rimasero senza parole. Per la loro mentalità, quella spiegazione era al di là di ogni commento e la sconvenienza in essa implicita li lasciò ammutoliti. Harry Ingram, un artista di chiara fama, del resto, se così non fosse stato, difficilmente avrebbe potuto prendere in considerazione l'idea di ammetterlo quale loro pari a casa Glumbeck, poteva dipingere ciò che preferiva. Ma non vi era una qualche legge ecclesiastica che impediva alle mogli dei pastori di farsi ritrarre i capelli? A loro sembrava che farsi ritrarre i capelli quando si era la moglie di un pastore non fosse meno riprovevole che farseli tingere. Un esponente di buona famiglia veniva rappresentato su tela per tramandare il proprio ritratto alle generazioni successive. Era quindi necessario avere generazioni di discendenti, di eredi e soprattutto appartenere a un nobile casato. In questo caso il ritratto veniva composto in modo sobrio, discreto, avveduto per il bene dei figli e non creato con leggerezza, per capriccio, per ottenere un effetto sensazionale. E assolutamente mai perché, come invece aveva spiegato Harry Ingram riguardo ai capelli di Frau Pastor, una certa porzione di una persona fosse particolarmente ragguardevole. Particolarmente ragguardevole. I due coniugi si scambiarono un'occhiata. La baronessa sollevò per un attimo dal grembo nero una mano bianca, flessuosa, per lasciarvela subito ricadere, mentre il barone, con un impercettibile cenno del capo, manifestava il suo totale consenso. Ingram aveva trovato una camera alla locanda di Köckensee, un luogo così sordido e assurdo quale domicilio di un ospite trattenutosi sino un giorno prima a casa Glumbeck, che il barone e la baronessa furono colti da una certa preoccupazione riguardo a ciò che i loro domestici avrebbero potuto pensare, quando dopo essersi issato agilmente sul calesse alla presenza del maggiordomo e del valletto, lo udirono impartire al cocchiere l'ordine di condurlo al nuovo indirizzo. La baronessa scrisse immediatamente al figlio Hildebrandt a Berlino, responsabile d'aver introdotto in casa sua Ingram, per comunicargli che non avrebbe più acconsentito da mettere Harry Ingram nella loro dimora. L'ho fatto per compiacerti, scrisse, ma com'è vero che questi artisti non riescono mai a elevarsi oltre all'essere semplici artisti? Ho chiuso con personaggi che, per quanto brillanti, non siano al nostro stesso livello. Ti prego di portarmi dei gentiluomini la prossima volta. Si astenne dal menzionare, dato che la sua condizione non le consentiva di farlo, la questione dei capelli, e quella sera espresse al barone la propria speranza che perlomeno il dipinto fosse un acquerello. Sentiva che in qualche modo la pittura d'acquerello era molto più consona ai comandamenti che non quella a olio. Nell'angusta e scura canonica, intanto, a Ingram risultava impossibile comporre un ritratto che si potesse considerare un'opera seria, e poiché non vi era un locale che fungesse da studio, Ingram cominciò una serie di bozzetti all'aperto in giardino, dentro al barchino, ovunque e dovunque. Devo pur farmi un'idea di voi, dichiarò, rendendosi conto che le sue visite quotidiane richiedevano una spiegazione. Poi, più avanti, dipingerò il ritratto vero e proprio, in uno studio che si possa davvero definire tale. Ne ho uno molto bello a Venezia. Dovrete posare per me là, come se fosse dietro l'angolo. Ma questi sono meravigliosi, disse afferrando gli schizzi. Vorrei davvero essere così. Vi ritraggono esattamente come siete. Sciocchezze, ribatté lei, gongolante di piacere. Ingeborg sapeva che non era vero, ma le sorrideva l'idea di lasciarsi indurre a credere che miracolosamente egli la vedesse davvero in quel modo. I disegni erano straordinari, fugaci espressioni di istanti felici immortalati dalla mano di un grande maestro. Raramente egli aveva riprodotto una porzione più estesa della testa e della gola e solo talvolta la curva della spalla. Il giorno in cui ebbe modo di comprendere come lui vedesse la sua nuca, arrossì nel notare com'era soavemente tratteggiata. Ma quella non sono io, mormorò. No, penso che nessuno vi abbia mai spiegato come siete in realtà. Non ce n'è mai stato bisogno. So bene come sono. E invece a quanto pare non lo sapete affatto. Era proprio ora che arrivassi io a dirvelo. Già, convenne Ingeborg. Ingram trovava che la franchezza e i modi schietti di quella donna agivano su di lui come un balsamo. Parlare con lei era come aspettarsi il viso di fresca acqua di fonte. Non aveva mai conosciuto un essere appartenente al sesso femminile che si avvicinasse così tanto all'assoluta semplicità. Per quanto lui tentasse in ogni modo di vezzeggiarla e di tributarle gli elogi più originali e lusinghieri, tutto ciò che ne ricavava era una sorta di oggettivo piacere da parte di lei che all'inizio lo incantò, ma poi prese a infastidirlo. Siete spontanea, quanto un ragazzo cantore, le disse un pomeriggio in tono un po' irritato, dopo aver rovistato cielo e terra e depredato quasi tutti i poeti a lui noti per trovare immagini sublimi a cui paragonarla. Uno sforzo a cui lei aveva reagito restando immobile nel più smisurato compiacimento, chiedendogli a intervalli regolari di non smettere. Mi piace molto essere paragonata a un essere così aggraziato, pulito, puro, esclamò. È ben più vivo di un cespo di lattuga. In realtà mi chiedo se voi siate davvero viva, le disse, scoccandole uno sguardo colmo di ammirazione che lei restituì reclinando il capo da un lato e dicendogli che se non fosse stata la figlia di un vescovo, la moglie di un pastore, una persona che fin dall'infanzia aveva sempre pregato con fervore, nonché una donna rispettosa delle regole e delle buone maniere, come del resto si conveniva una vera signora, avrebbe certamente risposto. Potete scommetterci, ma se mai mi permettessi di pronunciare quelle parole non sarei di certo una vera signora, bensì una persona volgare, spiegò. Sì, credo che la mia buona educazione sia l'unica barriera che mi separi dagli eccessi. Voi una persona di eccessi, proprio voi, una personcina inoffensiva e fresca come l'acqua, come la rugiada del mattino. In tal caso anche l'aurora, le tonalità dei campi prima dell'alba, gli uccellini e il verde più tenero che si possa immaginare, più tenero persino di un germoglio appena spuntato. Sarebbe da considerare entità altrettanto dedita agli eccessi. In quella prima settimana egli si sentiva più felice di quanto potesse ricordare, vale a dire dal periodo in cui si vive, indossando grembiulini, in un universo che sembra essere composto soltanto dalla figura della propria madre e da immensi campi di fiori. Ingram stava assaporando con enorme gusto il piacere del totale contrasto, quella freschezza che sottende a ogni inizio. Da quel luogo solitario, da quell'eccentrica ambientazione tedesca, egli poteva finalmente guardare con distacco la sua vita. Ed essa gli appariva assurdamente chiassosa e stancante, improntata alla fretta. Tutte quelle donne, oddio, quante donne, che si raccoglievano e si coagulavano lungo il suo cammino, che personaggi spiacevoli gli apparivano ora. Donne che aveva dipinto e che insorgevano contro di lui, rimbrottandolo solo perché la sua idea del loro aspetto non coincideva con la loro. Donne per cui aveva provato amore, per cui era riuscito a convincersi di aver provato amore. Oppure ancora per cui aveva sperato che quanto prima sarebbe riuscito a provare amore. Donne che si erano innamorate di lui, donne che gli si assepavano attorno e che gli svolazzavano accanto come ali, mostri che lo fagocitavano carezzevolmente, insidiosamente per poi soffocarlo. Donne che aveva trattato ingiustamente, che parole assurde queste. Donne che avanzavano pretese su di lui, sì, proprio su di lui. Che apparteneva solo all'arte e all'universo intero. E poi c'era sua moglie. Oh cielo, anche sua moglie. Lì, a Kirkense, invece, si sentiva al sicuro da quegli innumerevoli motivi d'ansia, dei fastidi, dalle folle della popolarità che premevano e si intagliavano un varco tra lui e l'unica cosa che gli importasse davvero, il suo lavoro. Ma anche dalle brutture della vita familiare. Dalla società che lo incitava a varie ripetizioni dei suoi atti di genialità, da tutti coloro che si arrogavano il diritto di pontificare su pensiero, arte, mente, universo, dalle gelosie, dagli affetti, dalle lodi, dalle passioni, dall'emozione e dalla noia. Essere là, a Londra, al centro di quella vuota confusione, gli dava la medesima sensazione che ricevere in pieno viso, sospinta dal vento, la polvere e la sporcizia di un mercato affollato e maltenuto. A Kirkense, invece, si sentiva come presumeva dovesse sentirsi un pesce solitario che guizzasse in una boccia di limpida acqua. Ingeborg era l'acqua. Kirkense la boccia. Per un'intera settimana nuotò deliziosamente in quel nuovo elemento e per una settimana si sentì pura e innocente come mai prima, dilettandosi a sguazzare in quella fresca traslucenza. Poi, gradualmente, per il medesimo motivo che sino a quel momento l'aveva tanto affascinato, vale a dire la sua curiosa rassomiglianza a un ragazzo cantore, Ingeborg prese a irritarlo. All'inizio aveva trovato che quell'affetto sincero, la gioia manifesta di stare in sua compagnia, l'ammirazione eccessiva e sempre pronta fossero tributi lusinghieri e divertenti dopo l'esteriorità artificiale, i trabocchetti e le finzioni sfacciate delle donne che aveva conosciuto. Quei tributi erano come un bagno alla fine di una giornata calda, come una sosta in una stazione in aperta campagna alla fine di un viaggio su un treno soffocante. È comunque impossibile stare immersi nell'acqua o sostare su un binario per tutto il giorno senza che prima o poi venga voglia di compiere anche le azioni successive, quelle azioni che viene naturale auspicare nello sviluppo di una situazione. Ingram si sentiva sconcertato dall'apparente incapacità di Ingeborg di sviluppare quella situazione. Egli per un po' trovò incantevole e affascinante la sua rassomiglianza a un ragazzo, ma il persistere a lungo in quella condizione presto si rivelò stancante. Nessuna delle sdolcinatezze e smancerie che si sforzò di concepire riuscì a far apparire negli occhi di lei la più tenue traccia di femminile consapevolezza. Come comportarsi, si chiese, con una donna che si rifiuta di essere consapevole? Ingeborg riceveva le sue dichiarazioni con entusiasmo, le acclamava deliziata e ridente e, cosa alquanto sconcertante, reagiva con altrettanto ardimento, calore e varietà. Talvolta anche di più, sospettava Ingram, irritandosi se lei lo superava. A giudicare dai suoi discorsi, Ingeborg sembrava volerlo corteggiare, anzi, in base alle sue parole, avrebbe anche potuto trattarsi di amore vero e proprio, se non fosse che egli era assolutamente e dolorosamente consapevole che non si trattava di amore. Con il viso radioso e la voce giuliva, Ingeborg se ne usciva all'improvviso ringraziando Dio per essere stato tanto generoso con lei, e quando lui le chiese in quale modo, lei gli rispose con espressione seria: mandandovi qua da me. Per poi aggiungere con quella sua voce particolare, incantevole, era incredibile quanto fascino esercitasse su di lui la sua voce, pensò Ingram, una voce leggermente rauca, anch'essa simile a quella di un giovane cantore affetto da un leggero mal di gola. Mi siete mancato terribilmente in tutti questi anni. Senza di voi la mia solitudine è stata sconfinata. E poi quella sua onestà, l'aperta sincerità dei suoi occhi quando diceva queste cose, sì. Decisamente solo un corista che non superasse i 10 anni di età avrebbe potuto sostenere lo sguardo di un adulto ostentando una tale disarmante semplicità, confermò Ingram a se stesso. Ogni giorno, alle 2 in punto, ora entro qui alla canonica, la convulsione giornaliera causata dalla preparazione del pranzo e dai lavori di rigovernatura si acquietava, l'artista percorreva la distanza che separava Ingeborg dal suo alloggio, percorrendo la strada all'apparenza tranquilla. Nell'avvicinarsi al cancello di Dremmel, mentre tutte le bocche di Köken si commentavano concitatamente il ripetersi di quella scena, spiando attraverso tendine, occhiaggiando da porte socchiuse, egli si diceva che quello era il posto più immune dal pettegolezzo che gli fosse mai capitato di conoscere. Dopo aver scansato le pozze profonde che costellavano il cortile, procedeva oltre l'angolo della casa lungo il sentiero fiancheggiato dai cespugli di lillà, percorrendo per intero fino a raggiungere la parte che costeggiava le finestre del laboratorio. Lì, all'ombra dei tigli, sedeva Ingeborg in sua attesa. Allora lui iniziava a buttare giù degli schizzi, o fingeva di farlo, secondo l'umore della giornata, poi passavano alla conversazione. Già alla fine del primo giorno egli sapeva tutto della vita di Ingeborg, a cominciare dal matrimonio, i 6 figli, un particolare che lo lasciò sbalordito e sgomento, la corsa incoraggiata da lui all'inseguimento della cultura, il ruolo nel mandare avanti la casa, l'orgoglio per l'intelligenza di Robert, la solitudine e il bisogno disperato di qualcuno con cui parlare. Else e Rosa, Frau Dremmel, Robert, le Letedithi, divennero per lui personaggi straordinariamente reali. Mentre Ingeborg raccontava, lui non cessava mai di abbozzare piccole figure e immagini dei suoi fogli che rappresentavano i protagonisti di quei racconti. Il secondo giorno aveva già avuto modo di conoscere il genere di vita che aveva condotto a Rochester, il suo zelo filiale, gli innumerevoli doveri, le enormi difficoltà che aveva dovuto superare quando era venuto il momento di liberarsi dal giogo costituito dal rapporto con il vescovo. E mentre il racconto procedeva, il foglio andava lentamente ricoprendosi, fino a raggiungere il margine opposto, di piccoli vescovi e figurette espressive in grembiolino ancora libere da vincoli matrimoniali. L'unica cosa di sé che tenne nascosta fu la fuga a Lucerna. Dopo una settimana, però, gli rivelerò anche quel segreto. Ma allora siete in grado di compiere azioni che siano vive, intense? Asserì osservandola con occhi nuovi. Oh sì, se vengo incitata a sufficienza. Che cosa intendete dire di preciso? Beh, che a quell'epoca lo fui. L'incitazione consistette nell'essere stata prigioniera per anni e anni nello stesso posto. Esattamente quello che vi sta accadendo ora. Ma qui è diverso. E poi sono stata a Zoppot. Zoppot. E poi ora ci siete voi qui con me. Sì, ma non rimarrò qui all'infinito. No, ma sarete sempre da qualche parte su questa stessa terra. E tanto vi basta. Certo. E potrò leggere di voi sui giornali. Che sciocchezze, disse lui con aria irritata. E vivrò raggomitolata nel vostro ricordo. Come se fossi morto. Trovo davvero che non vi siano parole adeguate per spiegarvi quanto siate ridicola a volte. Credo sia da attribuire alla mia istruzione così limitata, replicò Ingeborg con remissività. Ogni giorno, all'ora del tè, Herr Dremmel si univa loro in giardino. In quei momenti la conversazione acquisiva un tono più elevato. Al lato della mostra dei bozzetti, Herr Dremmel reagiva producendo garbati commenti. Poi discuteva di arte con Ingram e Ingram discuteva di fertilizzanti con lui. E poiché nessuno dei due aveva particolari conoscenze riguardo alle materie in cui l'altro era esperto, la discussione proseguiva in base alla pura forza di intelligenza. Ingeborg versava il tè e ascoltava, pervasa da un poderoso senso d'orgoglio per entrambi. Pensava quanto ognuno dovesse provare simpatia e ammirazione per l'altro. Era certa che la razionalità di Robert e il suo inglese antiquato e spesso maestoso e i suoi ovviamente notevoli successi in campo scientifico non mancassero di impressionare profondamente Ingram. E naturalmente ricevere ogni giorno la visita di Ingram e discorrere con lui, ora che anche Robert era consapevole di chi si trattasse, non poteva che costituire per suo marito un'immensa gratificazione. Abbigliata nel suo vestito bianco, voluminoso e fuori moda, sedeva tra i due uomini, osservandoli compiaciuta mentre parlavano. Trovandosi al cospetto di due menti tanto eccelse, non si permetteva nemmeno di aprir bocca, ma era tutta orecchi. Beveva avidamente ogni parola e riteneva che quei dialoghi fossero di gran lunga più istruttivi della lettura del Clarion. Ingram aborriva l'ora del tè alla canonica. Ogni giorno gli costava uno sforzo sempre maggiore reagire in modo appropriato alla cerimoniosità di Herr Dremmel. La sua curiosità, tutta scientifica per i fatti che riguardavano l'arte, poi gli riusciva intollerabile. Detestava le pieghe profonde e cadenti che caratterizzavano tutti i suoi capi d'abbigliamento e il modo in cui si formavano e sporgevano tra un bottone e l'altro. Trovava inconcepibile che le maniche e le gambe dei suoi abiti fossero tanto più lunghe dei suoi arti. L'idea dei suoi figli lo faceva rabbrividire. Inoltre non gli importava assolutamente nulla dei superfosfati e provava enorme fastidio dover fingere il contrario. L'unica cosa di lui che lo interessava davvero, che desiderava con sempre maggiore intensità, ma che costituiva anche una crescente difficoltà, era sua moglie e la possibilità di corteggiarla. L'assoluta inconsapevolezza di Herr Dremmel riguardo a tale eventualità e la sua mancanza di considerazione nei confronti delle attrattive della moglie lo irritavano oltremodo. Era scandaloso che lui non si prendesse maggior cura di quel tesoro di donna. Ogni volta, all'ora del tè, si arrabbiava per l'indifferenza di Herr Dremmel verso Ingeborg e ogni giorno, ossia prima che dopo quell'ora, doveva concentrarsi per non prendersene cura lui stesso, ammettendo che in tal modo fosse possibile definire ogni vano sforzo di far breccia nel cuore di una donna. Vedete, il fatto è, gli spiegò Ingeborg quando lui le confidò ciò che pensava riguardo all'imperdonabile assenza di Herr Dremmel e alle manchevolezze nei suoi confronti, che Robert è un uomo fuori dal comune. È meraviglioso. Le cose che riesce a diventare nel campo della coltivazione dei cereali. E E naturalmente, se uno si prefigge di riuscire in un certo ambito, allora si deve dedicare interamente anima e corpo a perseguire quello scopo, sacrificando adesso ogni singolo minuto della giornata. Figurarsi che persino quando mi amava non riuscivo a trovare il tempo per... Persino quando vi amava, la interruppe Ingra. Perché ora non vi ama più? Oh, sì, certo, ribatté affrettatamente Ingeborg arrossendo. Intendevo dire, sì, certo che mi ama. E poi un uomo non ama sempre la propria moglie? No, non è affatto scontato. Sì, invece. La conversazione non proseguì oltre quel punto. Alla fine della seconda settimana del suo soggiorno a Kökensee, Ingram si ritrovò a intensificare gli aggettivi, le immagini, i raffronti che quotidianamente le dedicava. Le sue argomentazioni diventavano sempre più poetiche, poiché la forza della vicinanza, oltre alla mancanza di altre persone con cui discorrere e di altre cose a cui pensare, stava iniziando a far sentire il suo peso. Egli riteneva che in quel frangente l'unica cosa per cui valesse la pena accanirsi era riuscire a far materializzare in quegli occhi onesti uno sguardo di femminea consapevolezza, un sentimento che andasse ad affiancare, o meglio, a sostituire la patina di amichevole ammirazione che era possibile rilevare allo stadio attuale. A quel punto Ingram si sentiva terribilmente attratto e parimenti esasperato. Lei, dopotutto, era una donna ed era assurdo, per non dire incredibile, che lui, Edward Ingram, con ogni possibilità a portata di mano, non riuscisse a smuoverla di un solo passo dalla condizione di sua ammiratrice, in quanto artista e celebrità, e a condurla più vicino all'uomo che stava dietro a quei ruoli. Era così espansiva, amichevole, calorosa da un lato e così sfuggente dall'altro, così reattiva, sollecita e pronta a tentarlo con il più dolce miele della lusinga e dell'ammirazione, ma altrettanto cieca riguardo al fatto che, beh, che si trovavano insieme e che alla fine dei conti erano pur sempre un uomo e una donna. Inoltre possedeva un senso del ridicolo che banalizzava ogni suo sforzo, un senso assolutamente mirabile in una donna che si trovi in un qualsiasi altro frangente, ma per nulla apprezzabile quando l'uomo in questione sta tentando di corteggiarla. Poi era così elusiva. Quel suo carambolio mentale gli dava sempre la sensazione di non riuscire mai ad acchiapparla davvero, e questo ovviamente non giovava affatto ai progressi che egli sperava di compiere. Non che gliene importasse molto dei suoi ragionamenti, perlomeno fin tanto che non fossero andati a costituire un ulteriore ostacolo. Ciò che lo affascinava tanto era quell'altra parte di lei, la sua piccola anima bizzarra. Poi la sua gioia, l'entusiasmo per la vita, oltre naturalmente all'armonia delle forme e dei colori della sua persona. Ci credereste se vi dicessi? Le domandò mentre passeggiavano lentamente lungo il sentiero che attraversava i campi di segale, inondati dagli effluvi liberati dal calore di quella giornata che andava morendo. Che darei 100 giorni della mia vita solita a Londra o a Parigi per un'ora di questa atmosfera, di quest'aura che vi portate attorno. Beh, non mi sembra che 100 siano un granché. Io li darei tutti i miei giorni soltanto per la possibilità di stare con voi, qui, ora, in mezzo ai campi di segale. Non trovate che questa sera l'atmosfera sia portentosa, assolutamente straordinaria. E sentite questo profumo? Si arrestò e sollevò il viso, concentrandosi esclusivamente sul suo senso dell'olfatto per accertarsi a quale fragranza corrispondesse. Ecco ora, sentite? È il convolvolo. Avete una tale fede nelle mie muse, riprese Ingram quando riuscì finalmente ad allontanarla dai convolvoli. Una fede così devota, così coraggiosa. Ma è ovvio, ribatté girandosi e avvolgendolo nel suo sguardo luminoso. Chi potrebbe non aver fede nelle vostre muse? Arte, amore, bellezza. Non si tratta solo di arte. Le mie muse sono creature dolci, celestiali, le annunciò Ingram. In quel momento, convinto di non avere mai fatto altro che invocare muse di quel genere, tanto si sentiva purificato dalla vita morigerata che conduceva a Kökensee. Oh, disse Ingeborg con reverenziale ammirazione. È meraviglioso che siate esattamente quel che siete. È anche merito vostro, dopo tutto, aggiunse con un movimento impercettibile delle mani, indirizzandogli un sorriso, che siete quello che siete. Sapete invece che cosa siete voi esattamente? Una finestra aperta sul mondo all'interno della prigione della mia vita. Ingeborg trattenne il respiro per un attimo. Che bello! Esclamò poi. È bellissimo! E come siete gentili a pensare di me tutte queste belle cose. Ma perché la vostra vita dovrebbe essere una prigione? Proprio voi che fra tutti. Non si tratta di vita reale, vedete? In realtà io conduco soltanto un'esistenza caricaturale. È come cenare ogni sera con le statue di cera di Madame Tussauds o con presenze altrettanto irreali e inconcepibili. Ma non capisco come possa un grande artista, mentre voi siete come una finestra spalancata che mi offre l'immensità del cielo, l'aria fresca, la libertà, la luce. Oh, mormorò Ingeborg con un cenno deprecatorio ma intimamente rapita. Quando sto con voi provo un disagio intollerabile per tutto il chiasso e il vuoto di quell'altra vita. E io, quando sono con voi, mi sento come se fossi colma di. Sì, di stelle. Egli rimase un attimo assorto, poi, determinato a non lasciarsi superare, aggiunse: Quando sono accanto a voi mi sento io stesso una stella. Come se non lo foste sempre. No, è solo l'effetto della vostra vicinanza. Prima di conoscervi non ero altro che un iracondo ammasso di fango, ma un buco nero, una gemente pozza di vuoto, un essere eviscerato, senza interiorità. Un essere cosa? Domandò Ingeborg, che non aveva mai udito prima quell'espressione. E voi, proseguì, siete l'acqua fresca che sa donare la calma. Siete il profumo delle rose che penetra in una stanza, la liquida luce che modella la mia argilla. Ingeborg trattenne un profondo respiro. Tutto questo è meraviglioso. Meraviglioso, affermò. È il modo in cui lo dite. Il modo in cui lo dite lo fa sembrare così reale, proprio come se lo pensaste davvero. Oh, non mi importa nulla se vi prendete un po' a gioco di me, purché continuate a dirmi all'infinito cose incantevoli come queste. Prendermi gioco di voi? Ma allora davvero non avete la più pallida idea di quanto siate deliziosa. Ingram abbassò lo sguardo per fissarlo in quello di lei. Con quegli occhi che mandano baci colmi di dolcezza, le disse, scrutandone le profondità. Capitolo 29. A Rochester nessuno parlava mai di baci. L'argomento non era da menzionare. Erano permessi solo in determinate circostanze, quando non avevi nessuna voglia di baciare, ad esempio, ma all'altra persona quel rifiuto non aggradava affatto. Erano legati nella stretta cerchia dei congiunti. Come banchi di una chiesa, i baci erano riservati alle famiglie. Alle zie era concesso baciare, anche a profusione, specialmente se avevano un po' di barba. Ingeborg ricordava una zia con il mento ispido. Anche le madri potevano baciare. Rammentava di aver visto sua madre, solitamente molto controllata, baciare il neonato con una sorta di voracità, quasi di cannibalismo. Pure i baci dei vescovi erano ammessi, anche se solo in certi, limitatissimi ambiti. Per quanto riguardava i mariti, poi, questi sembravano essere liberi di baciare fino al giorno in cui improvvisamente cessavano di farlo. Nessuno, però, né zie, né madri, vescovi o mariti, avrebbero mai utilizzato i baci quale tema di conversazione. Com'era confortante, quindi, e piacevole la spontaneità di Ingram. Ingeborg si compiaceva di notare che, nonostante egli ovviamente fingesse riguardo a quella storia dei baci nei suoi occhi, si prendesse pur sempre la briga di parlarne. Palpitante di gioia e orgoglioso, si domandava che cosa avrebbe pensato a Rochester se avesse potuto ascoltare quell'uomo celebre, che anch'essi osannavano, rivolgersi a lei con parole tanto semplici e insieme tanto gentili. Per la prima volta preferì non replicare. Rimase in silenzio a rimuginare tra sé pensieri soddisfatti e divertiti. E Ingram, che le camminava al fianco con le mani in tasca e una nuova sollecitudine nel passo, si sentiva trionfante per essere infine riuscito, pensava, a toccare la sua femminilità, a lasciarla senza parole. Non che non gioisse nel vedere l'incenso che lei deponeva a bruciare ai suoi piedi o le sfrontate espressioni di ammirazione, ma riteneva che un uomo dovesse pur avere un certo spazio per il corteggiamento e, una volta imbarcatosi in quel piacevole esercizio, non gradiva vedersi rubare le parole di bocca. E Ingeborg lo faceva di continuo, per restituirgliele con un potente rimbalzo dopo averle ulteriormente infiorate. Sapeva che, quando fosse riuscito a penetrare sino al nocciolo della sua femminilità, lei avrebbe cessato di comportarsi in quel modo scanzonato, per diventare infine consapevole del fatto che dopo tutto loro due erano un uomo e una donna, per diventare infine arrendevole. Avrebbe smesso una volta per tutte di considerare lui come un semidio e se stessa una sorta di umile sagrestano del suo tempio. Ora, a quanto pareva, aveva finalmente fatto centro e il suo silenzio, mentre le camminava a fianco con gli occhi abbassati a terra, era più dolce di qualsiasi orazione di plauso. Comunque, non avevano ancora raggiunto il varco tra le siepi di lilà che costituiva l'ingresso in quel lato del giardino di casa Dremel, che Ingeborg stava di nuovo riprendendo a parlare. A Recchester, esordì. Oh, esclamò Ingram interrompendole. Intendete forse darmi una descrizione della città e dei suoi dintorni così da impedirmi di descrivervi la vostra bellezza? No, rispose lei ridendo. Sapete bene che potrei ascoltarvi all'infinito. La medesima franchezza, il medesimo sguardo splendente d'ammirazione. Ingram avrebbe voluto prendersi a calci. Stavo pensando, proseguì. Come nessuna Recchester parli mai di baci, né tantomeno di baci colmi di dolcezza. Quindi siete scioccata? No, che razza di parola da usare! Mi meraviglia! È un miracolo che uno come voi sia così gentile verso di me. Tutte quelle cose belle, quelle cose splendide che mi dite. Ingram trovava quel trucchetto della gratitudine particolarmente esasperante. Ma ditemi di Recchester, interloquì bruscamente. Là le persone non si baciano. Oh sì, ma non hanno baci colmi di dolcezza dentro agli occhi. Ingram si sentì accapponare la pelle. E le persone non ne fanno mai menzione esplicita, a meno che non si tratti di zie. In ogni caso, nessuna zia potrebbe mai inventare una frase come quella. E se anche la inventasse, credo proprio che io non vorrei ascoltarla. Con me invece sembrate almeno voler ascoltare. Sembrare che ascolti. Non pendo forse letteralmente dalle vostre labbra. Che benedizione, aggiunse con gratitudine. Che benedizione, che fortuna che voi non siate una zia. Beh, spero che la differenza sia ben evidente, dichiarò con aria imbronciata. Non sento la minima avvisaglia di zia risvegliarsi in me. Le camminò accanto lungo l'ombroso viale fiancheggiato dai tigli, declinando l'invito a fermarsi per cena. Si sentiva ammattire al pensiero di non poterla prendere tra le braccia in quell'istante lì, in quel luogo solitario, e obbligarla a risvegliarsi, a cessare di impersonare il ragazzo cantore, il sagrestano, oppure di non poterla scuotere. Una delle due cose, non importava quale. Sapeva però che non gli era permesso e si disse con disappunto che la ragione per cui non gli era possibile farlo sarebbe stata la sua immensa sorpresa, una sorpresa che non avrebbe di certo avvicinato nemmeno di un millimetro in più a ciò che era tanto bramoso di raggiungere. Forse sarebbe persino riuscita, anzi ne era certo, a ringraziarlo profusamente per quell'ulteriore segno di stima, per essere, avrebbe detto così squisitamente gentile. Siete stanco? Gli chiese, quando Ingram si fermò all'improvviso, augurandole la buonanotte, scrutando il suo viso nell'oscurità satura del profumo dei tigli in piena fioritura. No, forse non vi sentite bene? Mi sento benissimo. Allora, perché volete andarvene? Oggi sento di navigare in acque stagnanti. La mia conversazione è fiacca, vi annoierei a morte. Buonanotte.